smollendo sta, cioè un giorno non bolliva così questo apparecchio. Adesso vai. Boh, non lo so, non lo so. Boh. Vabbè, boh. Adesso probabile pure che sia il Nike che abbia troppa amplificazione e quindi spingendo troppo, o dovresti provare un attimino a diminuire un attimino il watt e vedere un po'. Picchi dei positivi, diciamo da 7 con picchi a 9, 9,5, quindi già spinge, la modulazione è sempre, si sente che è amplificata e che spinge, non lo so, magari è questione di capsula, comunque è chiarissima, eh? Sì, no, per quello già, mi stavo ascoltando un altro apparecchio, che sia questo granché, era meglio 60 con cui sia, e mo vediamo un po' cosa fare, se tenerlo oppure darlo via, ci devo pensare un po', perché se mi va bene una cosa che ho fatto la tengo e al limite me lo organizzo bene, mi faccio un ripiano e me la tengo, poi gli piazzo di nuovo il 60, così niente, così va bene, non ho problemi di fare colazioni, ho già tratto e tutto e via. Nel MD più 4 lo mettiamo dove la prima. Vabbè, avanti Gianni, riprendi tu. Perché già la che sta bollendo, allora riprendi tu già. Ciò che sei dormito. No, io lo prendo per dirvi che sta ancora registrato. Tanto riprendi e fai girare, c'è anche Pomponio, riprendete voi, dai. Io sto in quel RX che sono a mezzo assomigliando. Chiappa. Vabbè, non c'è problema già. Ma vuoi sapere il mio parere, lui? Secondo me con la radio va benissimo così. Poi io no, la verità a me non mi sembra rimbombante, assolutamente, anzi tutt'altro. Bella la volta, è proprio come piacciono a me le modulazioni. Io l'ho sempre detto. Ma ho sempre dato quelle fastidio, quelle modulazioni che non riesco a sentirle. Ma non c'è un certo, non è, allora, il fatto è questo, che tu mi stai ascoltando un baracchino, ma è un baracchino buono, non lo metto in dubbio, ma tu mi stai ascoltando con una radio un po' diversa, secondo questo è il problema, ma non lo so, boh. Perché magari va bene, per un lato va bene, ma ci sia un piccolo difetto che la radio è un po' rimbombante, come ha detto Sandro, ecco dove è il problema. No, lui mi sta dicendo un tipo di radio, tu mi stai dicendo un altro tipo di radio, cioè un baracchino e lui un altro tipo la mia, ecco, dai, più o meno, ecco dove sta il problema, tutto qua. Ma comunque interessante che si capisca, poi il resto ce la freghiamo. Avanti Sandro, ripeto. Ok, no, con modulazione va più che bene, Luca, troppo bene, diciamo si vede che è bella pizzante e così via. Allora, addirittura io farò la cassa, non so se ce l'ha presente, la cassa dove diciamo posso regolarmi, per dire la tua modulazione, la posso regolare, alti, bassi, medi, e me la regolo per dire come pare piace a me, capito, io ho, diciamo, la modulazione non l'ascolto tramite l'apparato, ma la faccio passare tramite la cassa, dove diciamo c'ha gli attenuatori. Comunque, diciamo, va bene, con modulazione va più che bene, niente da dire. Solo che, diciamo, o è perché è troppo, perché spinge troppo, e quindi tenta, diciamo, ad essere troppo amplificata, capito? All'infuori che tu dovessi usare, guarda, costa anche poco, la V908, quello da base, dove c'ha l'equalizzatore, compressore e compagnia bella. Sì, magari può cambiare il meglio quel tipo di microfono. Guarda, anche me, so che ormai io sono fissato con un MC60 perché è la stessa marca, e poi va bene, a me mi sono trovato bene, devo dire la verità. E se riesco mi comprerò quel microfono lì. Adesso vediamo, io ho visto uno su internet a seconda mano, dice, c'era scritto che era funzionante, e voleva 100 euro più spese. Adesso vediamo, se riesco lo compro. Non è problema, prima o poi prendiamo usi e altro non posso fare. Cioè, vabbè, lo stesso è quello, dai, noi ci prendiamo un bicchiere d'acqua. Va bene, diciamo che sono riuscito a mettere questo microfono qua, però ne ho provate tutte, non è normale. Certo, mi ha detto la marca, fai così, ma purtroppo non mi ha aiutato. Ma anche su internet, gente, dove io sto in... Aspetta un attimino, sa. Ma sta scemo, guarda. Vabbè, niente, dai, mi sono un po' perso, stavo a cam, una ragazza. No, non dico altro, sono pure per fare maleducato. Vai, sa, noi facciamo riprendere l'Antonio. Ciao, ma come hai sentito con questa radio? Sono trovato in Italia. Aspetta un attimino, fai un passaggio, Anto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ecco, adesso se io ti ascolto leggermente più alto di radio, si vede che pimpante è come radio, eh. Gatta. Era un pochettino di tempo, sempre usato, ma è buona, è come... dico, come tutto. Sì, è più leggermente più forte della solita, e hai anche dei picchi positivi. Cappa. Questo è un Airbex con l'M95. Cos'è un Airbex? Sì, la radio è un Airbex, il microfono è l'M95 della Delta G. Modificato. Lo so, va bene, quella radio lì va benissimo, l'Airbex io me lo ricordo, l'ho avuto anni addietro, e va più che bene come radio, va più che bene. Ok, Luca, io mi ricordo che quando tu avevi l'MC60, logicamente per quell'apparato è più indicato l'MC60, e non ce n'è. Sì, ma io volevo provare anche come cavolo si chiama il microfono, ma l'SM20 mi serve, l'SM20, sì, lo volevo provare, perché il cambio esce che una meraviglia, esce veramente bene, molto molto bene, e solo che costa troppo, costa essere a 150 o 170 euro, se non mi ricordo male. Ehi, non ti ricordi male, è un signor Mike, molto indicato, diciamo, per apparati indicate molto, diciamo, per apparati, diciamo, tipo ICOM e così via, però diciamo che si adatta un po' a quella specie, diciamo, di apparati. È un buon mic, io l'ho sentito da vari apparati e spinge veramente. Evidentemente, diciamo, gli si addice anche l'apparato, dai. Evidentemente è combinato all'apparato, ok. Luca, aspetta un attimino, provo a inserire il processore, vedi un attimino che cosa succede. Ok, adesso ho inserito il processore. Cosa ha cambiato? È più alta, sa, più alta. Ma è chiara, distorta? No, va bene. Ok, dai. Ok, già va bene, dai. Già va bene. Da quando l'ho mandato a fare l'allineamento, a metterlo a posto, va bene. Guarda, va più che bene, io ti ascolto benissimo. Sono un offside, sei il primo a dirti che non va bene. Va bene. Se hai fatto un allineare, ha fatto un bel lavoro, Poi gli ha coccato anche un bel microfono. No, va bene, sta ultima. Ma poi ho convinto che era un MC60, pensa a due. No. Allora, questo è un mic, diciamo, da militare. Lo usavano in una radio militare degli anni della guerra, che cosa. A vederlo fa schifo. È un mic, diciamo, normalissimo, non è neanche mic, diciamo, alimentato, né a batteria né niente, normale. Hai presente tipo il vecchio Tanner? Il vecchio Tanner è quale, però? Io non ne conosco tanti. Quello semplicissimo con la base, poi la gamba, poi c'è il microfono tipo un fondo di bicchiere, rotondo. Aspetta, fammi capire, sempre da tavolo parli di microfono, quindi da tavolo? Sì, sempre da tavolo. Diciamo che c'ha, diciamo, la levitina per schiacciare, diciamo, per la modulazione, poi non c'è nient'altro. In effetti poi fa tutto l'apparato, capito? Va bene, adesso non mi ricordo, no, il vecchio, guarda, lo puoi trovare, c'è un sito che ci sono tanti di quei mic, poi c'è lo Shure, il Tanner e così via. Questo sito si chiama Live CB Radio. Se voglio fare, sono curioso, aspetta. E vediamo tu, che hai trovato il sito, lo schifo. Ma sono un'oretta, sono attivino, che apro Explorer. Ciao, vediamo un po' se c'è il mio tanto. Ciao, metti, senti, se la bifina, ma so cosa è un costruttore, basta. È forte per far radio. Ma come fai gridando? Basta, mi faccio un errore. Mi aggiorno, mi aggacco. Vabbè, c'è anche fame in mezzo, no? Anche se ho mangiato. Stavo dicendo, hai gridato prima, capito? Sono passato a passo, forse parlo con Antonio. Basti con Antonio, con Sandro. Scusate, mi hai numero di Bologna, va? Che attaccata. Ma la so se chi sa, Chi sa è forte, Infatti, la coda è un po' allucinante, quando si abbassa anche la luce parlando. Va bene, diciamo che per essere un baracchino va bene, dai. Magari è anche il baracchino che lo fa pompare. Molte volte, se quando lo metti con il microfono va bene. Io ho modificato. Numero 93. Allora, Roberto Quadrato. E Roberto Quadrato l'aveva messo nell'anno 48. E usciva bene. E poi ero anche io. Qua c'avevo l'anno 68. E usciva bene lo stesso. Solo che la modifica era quindi ho sostituito a capsa, io ho messo la capsa del telefono e andava due pube. Dunque non era mai riuscito bene, perché andava una meraviglia il microfono. Ma se tra gli dico di rimetterlo, voi lo senti come esce bene. Certo. Comunque, dopo cosa ha fatto questa modifica, poi ci ho fatto una pochettina e basta. È uguale a quello del Roberto. Solo che c'è il kit in più, boh, non ha niente di più, ha solo il bip. Però anche nella maniera come è fatto è uguale, però c'è qualche piccola differenza perché Mabo gli ha fatto un'altra cosa in più. Però c'è la stessa capsula già. Comunque va bene. Con quei telefoni bianchi. Ma l'hai cambiata? Allora, se non mi cresceva così la sua. Perché io ho fatto la stessa cosa, con i telefoni bianchi. Ti ho attaccata. Ma va veramente bene, falsa. Secondo il maracchino diventa una belva. Tutto qua è forte la radio. E va la grande brutto. Io. Adesso ammetto che sono un po' di tempo fermo e via, ho preso l'accesso. Va bene, è culturale, come tipo che stavo parlando prima, mi sarebbe avuto 2 litri di vino in camera. Vabbè, è grosso, è un tipo ben grosso, ma non è che se ti guardi, se non mi sei pulso, tu devi vedere che hai acciagarato tanto. Sì, a Ciagarando, ma io mi sa di tanto. C'è un video di questo qua. E si è messo in campo una pagnotta più grande di lui, se la sbranata, mi pare che è una pagnotta di 3 kg. Caspa. Noi bisogna tenersi un po'. Già se ne accorgerà dopo, ma sicuramente non c'è la testa. Che ci vuole mangiare un bel, ma ci faccio i piatti di pasta, anche mezzo chilo, mangia, e poi si beve quel litro di vino, buono, poi quel vino di 13, no? Non è il bel vino come ci abbiamo noi, buono, ci bisogna, capo, c'è un'altra, io sicuramente una persona che sta abbandonata, no, certe cose uno non le fa. Io non le farei mai, soprattutto da una palla guata. No, non le passerei mai a tanto. Sono diverso. Diciamo che vabbè, ci ha raccontato che si è parato. E poi, vabbè, c'ha un figlio. Vedi 2 secondi, quando si può dire come farlo mettere, aspetta un attimino, taglia registrazioni, mettiamo l'acqua in colla, ok. Senti come sta qua, se no che la butterà. Aspetta, mi canta una canzone, ma canta, inizia questa canzone, dopo metà diciamo base cantata, questa ti fa puntina significa che gli ha preso il mic, no? Da questa chat, che qua puoi, che puoi parlare, no? Puoi cantare. Senti, aspetta. Allora. Vediamo un po' se sto qua. Senti come sto, eh? Mi sono senti prima. Yeah. Salve Gesù, io ti volevo tu fare male fa un coro. Allora, praticamente questo tipo, no? Si chiama Domenico, no? Ha chiamato in diretta la corrida. Siccome la luna su Skype, è in diretta, gli ha fatto parlare con la redazione della corrida. E si è detto, va bene, sto qua con la corrida. E non so quando adesso, quando la faranno di nuovo. E comunque sia, va a trattare lì, vediamo un po' cosa esce. Io dico ci faccio un bel di baditi. A me piace una cosetta, che mamma mia! Guarda lì, guarda, non è lontano, tu scrivi su YouTube, aspetta, c'è un attimino, così lo vedi. Allora, YouTube, scrivi Ferdinando Nigro. Ferdinando Nigro, non vedi che canta? Ma se ce l'ha acceso il computer, se non ce l'ha acceso comunque più tardi o domani lo vedi. Ferdinando Nigro. Cioè, adesso ho attaccato tutto. La mamma mia, che risata, è capo del popolo, gatto. Rosi, rossi, per te. Batteria, no, non sto qua, c'è il video, è il primo che vedi, non c'è da sbagliare. Vediamo un po', aspetta, è mitico, mi hanno isolato tutti. Sarà che si incendia. Sì, non fa niente, sto facendo la ventola. Mamma mia, ma mi guarda, ma di dove è? Boh, non mi ricordo che zona è. Ha detto, se non mi ricordo. Non mi ricordo. Beh, comunque è continentale, là. Però non so di preciso dove sta. No, è una brava persona, non è che... Se lui mi ha tutti i baruguru. Cioè, guarda, tutto il giorno per 35 euro. Fattaci di tutto. Vedi, questo è il poverino che è così. Cosa le vuoi fare? A 35 euro tutto il giorno. In campagna, a... come si chiama? Ma... a... ha detto affannato via, ma a seminare, ma lui sta dietro, il tipo col trattore va avanti, ma no, lui dietro butta, a quanto ho capito, poi non lo so, poi lo fa zappare, gli fa pulire la campagna, non lo so, 35 euro mi sembra che fa 12 ore, come faccio, e poi ha morto 50, e lo so. Storia, purtroppo siamo così che... Sì, è purtroppo sì. Beh, tu, arrivati siamo, mia, che ho la una volta, su mitraglio, dato con la musica nella chat, ma dormetto, quindi domani mattina alle 7, qualcosa mi devo alzare, mi devo lavare, poi mi cambio e vado a farmi le mie 3 ore di lavoro. Dai, sentiamo domani, a tu. Saluto anche gli eventuali ascoltoni e niente, e quando di una buonanotte e alla prossima, a tu, vai. Ciao. questo, dovevo chiedere una cosa, è tutto a posto quella cosa? Quale? Non ho capito, quale cosa? Cos'è quella cosa che è venuta, cioè, ieri sera è avvenuta? No, diciamo che sono, diciamo, è buono, ecco, dai, è buono, però devo aspettare ancora. Certo, ma sto lavorando. Adesso tu guarda, sto facendo queste 3 ore, provvisoriamente, per 2 mesi. Certo, meglio di nulla, allora. Fai subito a fare perché i soldi servono. Servono. Sono contento. Ma se là vado male, prendo di più, faccio 6 ore, 2 mesi di virtù, ti dico di molto spesso, non passavi a portare le bombole. Non mi venivo la divisa, no? Facevo più ore lì, ma prendevo lo stipendio, bello. Vabbè, per il momento attendi, meglio di nulla sarà. Attendi e poi quando ci sarà il tuo turno andrai. Però per il momento per 2 minuti servono. Mi sa che il mio turno è a novembre, se Dio vuole. Se tutto va bene. È un casino lì, capito? È un casino perché subentrano prima di me quelle categorie protette, capito? E io loro hanno la precedenza e devo aspettare lo stesso. Quando mi è capitato l'anno scorso, dovevo entrare molto prima, invece mi hanno chiamato dopo, ma comunque ci hanno lavorato lo stesso. Questi che prendono adesso praticamente non devono aver lavorato nell'anno 2010 neanche una volta, assicurato. Allora quelli passano. Siccome io ho lavorato nel 2010 non mi spetta mai. Che cazzo. Aspetta che ti libererà, fai cosa subito, fai. Comunque piano piano bisogna cercare di andare avanti, bisogna accettare che bisogna anche stamparci in qualche maniera. Va bene, dai. Sono contento che almeno così pochettino con le 3 ore, cioè, va bene così. Ma meglio di niente, meglio senza rimanere niente. Ok, dai Lu, dai, ti auguro una buona notte e un buon lavoro per domani. Ehi, aspetta un attimino. Sì. Sei dormito Ferdinando? Quella che ho bambina, la Lucia. Sei cicciato, è dormito, da Dio, ma è un disbaglio. Non ci sono mai tanto qua. Comunque è troppo forte, cioè, è mitico, non si fa problemi di niente quello. Anche se stona oppure non si fa problemi di nulla, apre la casa in diretta, bella in diretta, canta e stona che è una meraviglia. Ed è per quello che è molto, così, sono molto ricercato qua per farlo cantare. Purtroppo ognuno c'è il suo carattere, cioè. Ok Luca, dai, ce ne risentiamo. Grazie per la chiacchierata, grazie a tutti perché ci abbiamo passato una bella serata, una bella chiacchierata modulata. Finalmente, dopo anche ieri è stata una bella giornata. Ok Luca, dai, buonanotte a te e a tutti quanti quelli che stanno ascoltando. Ciao ciao. Ciao, ciao, ciao a tutti. E adesso me ne vado anche io a Domofax. giornata di lavoro. Ciao. Ciao a tutti. E grazie sempre per la chiacchierata.